Una buona serata, un buongiorno, un buon pomeriggio, insomma dipende da quando state ascoltando questo 451 frammenti sonori, perché insomma avete varie possibilità di ascolto tramite insomma blog e quant'altro. E quindi insomma dipende insomma dalle vostre abitudini oppure dalle occasionalità rispetto a 451 frammenti sonori che in questa ora, così la mettiamo insomma sul neutro, non specificando insomma le ore, proprio per dare quel senso insomma di così di apertura, che tra l'altro avete già sentito con Salvatore Titolo, con veramente musiche molto suggestive, continuando ma in ambiti insomma diversi, ma sperando insomma che l'attitudine sia quella appunto di liberare, come dire, anche certe energie. In questo caso sono energie legate a al funk, quello più afrofuturistico, che questa sera passerà attraverso quindi suoni inevitabilmente tecnoidi, ma anche insomma con quel senso cosmico, futurismo cosmico potremmo dire, anche per molti versi, che viene da un immaginario sonoro tanto da Sarra che da certo George Clinton, attraversamenti anche poi per quello che è la techno dub degli anni 90, quella sorta di invenzione incredibile che fu di Maurizio, e quindi discorsi legati a quella afro-germanità che insomma ancora per certi versi insomma sconvolge magari meno veduti. In realtà insomma c'è un fortissimo collegamento soprattutto appunto in termini di techno, ma già con addirittura i padri di quel suono, ovvero Kraftwerk, quando appunto venivano campionati d'Africa Bambata e Company, perché poi di fatto insomma fu questo l'avvio, e Kraftwerk suonavano funk senza essere neri con le macchine, e queste correnti sotterranee che poi sono emerse nel corso dei decenni, attraversamenti che ovviamente sono passate dalla tecnologia, ma anche da forme di escapismo, di, se non proprio di utopie cosmicheggianti, e per iniziare proprio con un disegno afrofuturistico, quello di Gerald Creever, jazzista anche piuttosto ricercato soprattutto nell'ambito dell'improvvisazione, sue grosse collaborazioni con Perelman, con Matthew Shipp, che dalle parti 451 è particolarmente amato, è stato particolarmente amato perlomeno Gerald Creever, da qualche tempo si è dato a un suono che è tanto jazzato, ma con appunto un'accezione jazzata che possiamo considerarla come trama sonora, come attitudine generale alla musica, perché il suono si avvicina, se non propriamente elettronico, perché ma anche molto suonato in alcuni casi, con strumentazioni insomma non elettronica. Il più delle volte si va verso quelle sonorità di sintesi che ci possono soltanto far portare verso appunto disegni afrofuturistici, e quel senso, se vogliamo, di una techno che forse è di qua a venire, forse è già stata, ma non ancora emersa, se pensiamo a certi certi disegni jazzistici di Underground Resistance, ad esempio. Poi avremo insomma modo anche di continuare con un altro grande maestro che tra l'altro insomma va da sé, ma capirete subito dopo perché insomma tirare anche in mezzo il jazz, quello più appunto futuristico. Non è un caso che prima abbia citato il nome del grande San Ra. Però per iniziare appunto Gerald Cleaver da Griots, disco notevolissimo appunto per avventura musicale, senso appunto della ricerca, e con sonorità jazzistiche che incontrano l'elettronica, momenti cosmicheggianti e altro, e altri potremmo dire proprio nel vero senso della parola legati a quello che è il mondo della techno che in questo caso evidentemente non può che guardare e spostarsi in avanti. Gerald Cleaver per iniziare questo 451 in compagnia di Max Macchia, And to Funk. Ma dopo magari spiegheremo anche questo fine al funk. Thank you. Gerard Cleaver, Griots, uno delle uscite più belle sicuramente degli ultimi mesi, con quel senso appunto di avventura che dicevo prima, un jazzista, e si sente anche come chi riesce a fare della techno anche sublime a volte, come d'altronde non ricordare la città di Gerald Cleaver, che è Detroit, e come non ricordare uno dei padri, o forse appena dopo, no? Perché insomma i padri, la Trimurti, come dire, e quella di John Atkins, Derek May e Kevin Saunderson, Carl Craig viene immediatamente dopo, uno degli allievi di Derek May, insomma poco più giovane, ecco, e con quella sapienza appunto jazzistica, soprattutto nel muoversi in maniera felina, ovviamente, e quel jazz che ha quella capacità di molto jazz, quello di muoversi inventando generi, ma sempre con quel radicamento forte, che a volte può sembrare veramente anche piuttosto così ardito, se non addirittura così proprio incomprensibile, sempre per citare Sarra, tutto questo amore per l'Egitto, una cosmogonia tutta sua, eppur esistono molte registrazioni di Sarra dove tratta la materia blues, quindi per citarne alcune, ma veramente c'è dentro le musiche di Sarra, come dei nostri, insomma, di questa sera, di buona parte, insomma, dei nostri, e quel senso appunto radicale, ma nel senso di radice, quindi di saper trattare anche la cosa proprio come a tornare alla fonte, alla fonte stessa, se vogliamo metterlo su qualche cosa di liquido, oppure se vogliamo, insomma, utilizzare appunto la radice e andare proprio quindi andare direttamente a quello che fa nascere poi appunto quello che dà la possibilità appunto della nascita di un qualcos'altro, di una filiazione varia. Gerard Cleaver insieme a Carl Craig, appunto tutti e due detroitiani, sicuramente hanno queste grandi capacità di appunto filiare in termini appunto di sonorità, di attitudini che diventano suono, diventano probabilmente anche futuribilità, se pensiamo appunto a Griots, ma già con Gerald Cleaver, con Sign, che magari cercheremo anche di recuperare in qualche prossimo 451, e come fosse, insomma, ancora affetto da cosmicità varie, anche Craig, anche lui, insomma, non giovanissimo, come d'altronde appunto Gerald Cleaver, ma con quel senso appunto di capacità di far nascere appunto questa incredibile anche capacità nel tuffarsi in suoni che potrebbero risultare oramai anche consunti proprio per lo stesso Craig, eppure trattandoli con quell'attitudine che appunto accennavo già dentro Gerald Cleaver, discendente appunto da un certo Sarra, diventa appunto disegno fantastico e qualche cosa appunto che sposta sempre insomma la lancetta in una sorta di velocità funk e, tra iper o tra rallentamenti che diventano anche se appunto strane forme di viaggio sonoro tecno cosmicheggiante come proprio in questo ultimo pezzo di Craig, tra l'altro Forever Free, quindi ci sta anche con Cleaver per quanto riguarda appunto l'improvvisazione e soprattutto insomma per quanto riguarda a Sanrà, che questa sera insomma perlomeno in questa prima parte di questa prima ora, scusate insomma la ridondanza, e beh, la sta facendo da, come dire, da padrone in termini perlomeno fantasmatici. Carl Craig con Forever Free. We'll be right back. Sì, bravi. I nostri MMKM, ovvero Mix Map, Karen Moses. Beh, prima vi dicevo che per la prima parte, per la prima mezz'ora, insomma, Sanra sarebbe stato il punto di riferimento. E però all'inizio ho detto che c'erano anche delle correnti afro-germaniche. Evidentemente, se con Gerald Cleaver Detroit si è passati facilmente a Carl Craig, con lo stesso Craig è molto facile poi passare appunto in Germania, con buona parte insomma della techno di Detroit è facile passare dalla Germania. Loro due, appunto Mix Map e Karen Moses, per un disco di un EP di qualche anno fa, con quegli attraversamenti e quelli anche accavallamenti, sembra quasi che la ritmica di End to Funk, che è data tra l'altro il titolo preso di peso per questa trasmissione 451, sembra veramente che da un momento all'altro si possa rompere proprio per quell'accavallamento anche abbastanza così schizzoide che da un certo punto il pezzo. Ovviamente c'è quel senso ironico che nella techno, poi se pensiamo appunto a quella tedesca, prende anche quella piena quasi sardonica, no? Una fine al funk che altro non vorrebbe che essere proprio il sentire, se non addirittura il sentimento del contrario, un funk portato appunto verso lidi evidentemente tecnologici, ma anche decomposti, e poi invece questa liricità cosmica dei synth che vanno a prendere tanto dai loro genitori krauti, sarà per molto afrofuturismo, sarà un punto tuttora un punto di riferimento, sicuramente per suoni futuristici tedeschi, diciamo, si potrebbe già andare insomma verso lidi di futuro espressionismo degli anni 20, ma senza insomma tornare a tanto, torniamo semplicemente tra virgolette ovviamente agli anni 70, quindi chiaramente a tutti i corrieri cosmici e a tutta quella generazione. Prima citavo Kraftwerk, ma va da sé che veramente tanti e tanti e tanti, per Motorik sicuramente techno, perlomeno insomma citiamo noi. Questi accavallamenti anche abbiamo sentito anche in una forma più decisamente ironica, meno nevrotica, di End to Funk, Gala con Mixdown, sempre appunto da parte di MMKM, Mix Map e Karen Moses. Passiamo anche attraverso una forma così decisamente urbana, con quella con quel senso anche di smarrimento, perché no, nell'urbanità, quella magari anche più non con la seduzione notturna, potremmo dire, della città, in questo caso di Londra, ma più quella anche un po' angosciosa. Ma quell'angoscia che comunque riesce ad alimentare appunto quel senso anche assurdamente, si potrebbe dire, funk, se pensiamo insomma al funk come musica decisamente vitalistica, ma tant'è che prima si citavano certi anni 70 appunto con i Corrieri Cosmici, beh, citando appunto certi anni 70 e di certo funk, soprattutto di funkeria, beh, anche lì gli attraversamenti non erano per forza insomma chiari, e insomma poi abbastanza folcloristica, così a mo' di cartolina vedere il funk come musica appunto allegra legata soltanto alla felicità appunto del corpo, ma c'ha aspetti appunto sia fantascientifici, appunto l'aspetto afrofuturistico prende piede, e anche distopie, poi che se pensiamo insomma a declinazioni come il gothic futurism citato ad esempio anche nell'altro 451 frammenti sonori, allora lì le ombre, come dire, si proiettano anche veramente in maniera gigantesca nel suo farsi appunto grande anche così visione, visionarietà. In questo caso Actress ha sicuramente preso sia dagli uno che dagli altri, ma anche da una certa libertà compositiva data appunto da inquietudini anche così sonore legate tanto alla sperimentazione, che probabilmente anche proprio a un sentire, a un deragliare musicale elettronico che prende anche poi spesso anche dimensioni elettroacustiche, se non proprio anche acustica, perché no, visto che ha fatto Actress, stiamo parlando proprio di lui, ha fatto anche una collaborazione insomma con un'orchestra piuttosto piuttosto nota. Se appunto dobbiamo andare, dobbiamo farlo in chiusura appunto di questo 451 and to funk, andiamo a prenderlo Actress con il suo ultimo Karma Desire, anche qua dal titolo c'è una sorta di contrapposizione di suono controverso, di modalità controversa di intendere la materia elettronica, ma anche appunto quel senso escapistico che porta molto spesso Actress verso lidi appunto futuristici. Andiamo appunto a ascoltare con queste foglie che vanno contro il cielo, anche quindi questa immagine insomma decisamente Sturm und Drang, possiamo dire, citando altri tedeschi di qualche decennio fa che pitturavano nel vero senso della parola, ma di fatto insomma componevano, e attraversamenti che appunto ci hanno portato in questo End to Funk da Detroit a Berlino e poi su questo finale appunto a Londra con Actress. Max Macchia vi rimanda alla prossima trasmissione. Cercate insomma, poi non è che chiedo tanto, però se ci riuscite fate i bravi. Ciao.